Yeah. Paparazzi mi fotografano, fanno mi fotografano. Quando è tutto spento, inziendo ciù manco metronoma. Moi tavole si regnano, prima che stanno l'ospite. I macchine si infonano, che lacrima che pioggia. Su cusaria la cadengan, oppure a sinistra. È solo scenografica, mica è solo kiss. Sta macchina sta vista, pura vita che fa scimma. È sulla punta dell'iceberg, e l'iceberg a sa gimme. L'era aveva forza, l'era aveva forza. Sta barca che non porta, sta casa che non vive. Perché io sono piccirillo, ma esso rimane enorme. Fa piacere che fai sordo, però io rimane uomo. Il era vivo forza, il era fabo lungo. Che era fenomeno a pallone, ma poi sei nudo. Il ha già fatto forza, il ha già fatto chi non sa riposo. Il ha già fatto chi non tiene forza. Si sapesse che rimane di scedasse, ma non da dormisse. Si ha pregato se voluto e ce ne giurisse. Dico grazie ogni volta che mi chiedono una foto. Come se ce l'essi chiesto io allora, senza applauso. Quasi mi imbarazzo, il era vivo forza. Il era vivo sfizio, il era fabo mamma. Il era fabo forza. Il era fabo forza. Il era fabo forza. Il era fabo forza. Yeah, ne era volume, era pigliato cosa. Perché a metà era a metà i guest. Già era buono, c'era meglio come stavamo. E nel caso non ti fossi accorto, uso plurale per regola. Perché noi cantaneva, ma eravamo sempre numerosi. Di solito chi tiene tutto, sta sempre solo. Ne ho vera casi cara, rimarrà già solo. L'inverno è chino già, già stavo spazio. Allora l'era fa per forza, gli era fa qualcosa. Mamma diceva che non mi era fa coinvolgere. Dicendo che era ragionata, capo e non con cuore. Senza sapere che capo è vivo perché c'è sto cuore. Allora l'era fa, era volame, era purtroppo. Tutto quando ha presa, fin quando solo resta. O pigliamo tutto quanto come regola. Il era fa per forza, tu giura ogni costo. Mi era imparato a perdere, l'hai già imparato a vincere. Il era fa per forza. Il era fa per forza.